Qualcuno ha detto che l'uomo quando parla di Dio si accorge, con terrore, di parlare di tutt'altro. Non solo. Anche i cristiani, quando testimoniano di credere in Dio, spesso si trovano imbarazzati a parlare della loro fede trinitaria, perché, oltre ad essere già di per sé un argomento impegnativo, raramente ne ricevono un adeguato insegnamento dal pulpito. Ne consegue la constatazione che il termine Dio, benché il più usato, è il meno compreso. Infatti, ogni volta che si legge la parola di Dio, o la si predica, si dovrebbe specificare cosa si intende con tale termine, essendo possibile con questo riferirsi tanto alla persona del Padre, come a quella del Figlio, o a quella dello Spirito Santo, oppure ancora a tutte e tre. Se non si è in grado di comprendere questa differenza, non lo si è. Neppure di far comprendere agli altri ciò che si dice. E soprattutto non si può comprendere ciò che si legge nella parola di Dio. Tutti gli uomini religiosi concordano sul fatto che la loro divinità sia incomprensibile e inaccessibile, e anche i cristiani concordano pienamente riguardo al Dio nel quale credono. Gesù lo ha evidenziato dichiarando: "Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Il Padre e il Figlio, e di conseguenza anche lo Spirito Santo, hanno una relazione soltanto a loro conosciuta, a fondamento della quale sta il possesso reciproco della stessa natura, o sostanza divina, ossia l'eternità, in virtù della quale tutti e tre non hanno principio né fine. L'uomo, quindi, essendo una creatura limitata, avente un inizio, non può partecipare appieno a tale relazione. Per far comprendere come tre persone uguali e distinte possano essere un unico Dio in quanto posseggono la medesima natura, prendo l'esempio del gioco Geomag, dove tre palline di ferro sono distinte l'una dall'altra, ma tra esse passa lo stesso magnetismo. Nessuna pallina ha più magnetismo o meno, ma tutte e tre hanno la capacità di attrarre con la stessa intensità. Esempio certamente non perfetto, però mette in evidenza la possibilità di essere distinti e nello stesso tempo essere in possesso di una stessa e unica natura che per Dio è l'eternità. Un altro esempio potrebbe essere quello di un padre, di una madre e di un figlio che, benché siano tre persone distinte e diverse, sono partecipi tutte e tre della natura umana. Un esempio molto povero, perché i genitori sono più vecchi del figlio e ognuno ha i suoi malanni, mentre nella Trinità tutti e tre sono eterni. Coeterni, aventi la stessa volontà e sapienza. Nella Trinità non vi sono differenze se non in quanto a relazione, per questo uno è Padre, uno è Figlio e uno è Spirito Santo. Gesù però non si è limitato a dire che le relazioni nella Trinità sono inaccessibili, perché il suo discorso completo è: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Intati 11.27. Perciò il Figlio di Dio, che è in seno alla Trinità fin dall'eternità essendosi fatto carne, ha rivelato agli uomini di avere un Padre, cioè la prima persona della Trinità, e che gli uomini hanno una Padre celeste, intendendo con questo che la Deità, cioè la Trinità, ha anche un carattere paterno. Quando Gesù disse: "Io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me", oppure "Io e il Padre siamo uno", voleva proprio rivelare di possedere la stessa natura divina dello Spirito Santo e del Padre suo. Detto questo, occorre però non fare un errore che porterebbe a qualsiasi eresia, ritenendo che le relazioni interne alla Trinità non sono uguali a quelle che la Trinità ha con il genere umano. Benché gli intenti delle tre persone della Trinità siano gli stessi, si distinguono dalle loro opere come del resto si distinguono dalle loro relazioni in seno alla Trinità. Infatti, vedremo come ogni persona della Trinità abbia un rapporto molto diverso con il creato e il genere umano, anche se considerandone l'operato dal punto di vista della natura, della quale esse condividono il possesso, si può attribuire ogni opera personale di una persona divina a tutti e tre. Facciamo un primo esempio traendolo dalle prime parole della Bibbia. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Già questa prima affermazione di fede solleva alcune problematiche. Il Dio che ha creato i cieli e la terra, chi è? Poiché il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, chi ha creato ogni cosa? Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, o tutti e tre? Nessuno potrebbe saperlo perché nessun essere angelico e quantomeno umano era presente. Però stupisce come i primi cristiani ebrei avessero le idee chiare, per cui più volte abbiano dichiarato chi sia stato l'agente creatore. Giovanni inizia il suo Vangelo con queste parole. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, cioè Cristo, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Dunque, secondo l'Apostolo Giovanni, a fare tutte le cose è stato Cristo. Verità, questa, confermata anche dall'Apostolo Paolo. Egli, cioè Cristo, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. CL 1.1516, vedi anche, EF 3.9. La verità che il Creatore sia stato Cristo è affermata anche dall'autore della lettera agli Ebrei. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Se a creare ogni cosa è stato Cristo perché, allora si afferma che Dio ha creato ogni cosa. Infatti la Scrittura afferma anche che il Creatore è Dio, ma aggiunge per mezzo di Cristo. Perché questo discorso? Perché dipende da quale prospettiva si vedono le cose. Da un certo punto di vista è stato Dio a creare ogni cosa perché Cristo, essendo Dio, non può compiere qualcosa di non condiviso dalle altre due persone. Ma agli effetti pratici, il creante è stato Cristo. Se io sollevo una matita con la mano, posso dire di avere sollevato la matita perché io sono tutto il corpo, ma agli effetti pratici a sollevare la matita è stata la mano. Ecco perché è doveroso, è indispensabile dividere le opere che le persone della Trinità compiono in relazione all'uomo e al creato. Se non si compie questa divisione, per forza di cose, occorre concludere che in croce è morto non solo Cristo Gesù, ma anche il Padre e lo Spirito Santo. È vero, come dice Paolo una sola volta, che Dio si è acquistata la Chiesa con il suo proprio sangue, At 20.28, ma sarebbe assurdo concludere che in croce è morto il Dio Trino, perché Dio non può morire. Perciò ogni volta che parliamo di Dio dobbiamo tenere presente cosa intendiamo e a chi ci riferiamo. La susseguente domanda spontanea è: se Cristo ha fatto ogni cosa, che relazione hanno la persona del Padre e dello Spirito Santo con gli uomini e il creato? La parola di Dio, e quella pronunciata da Gesù, non lascia dubbi. La persona del Padre ha mandato Gesù Cristo e lo Spirito Santo attira gli uomini a Cristo. Trattino. Io sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. GV 5.38. Vedi anche 5.37, 6.29, 6.3840, 44, 57. Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. GV 16.26. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. GV 6.44. Proprio perché il Padre non è inattivo, anche se la sua presenza e persona non è mai stata vista, Gesù rispose a coloro che lo accusavano: il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero. GV 5.17. L'opera del Padre è dunque di autorità e di aiuto all'opera di Cristo. E lo Spirito Santo? Quale relazione ha con il creato e l'uomo?